fare il cabaret, però parli di libertà ma non la rispetti. Ci avete disturbato per mezz'ora. Ah, scusa, no, alle 8 meno quarto hanno detto io sono qua. Grillo! Grillo! Forza l'Italia, ce la deve fare! Ieri ad Alghero, Don Tonino Manca ha messo in riga Beppe Grillo perché col suo comizio fuori orario disturbava la messa. Come diceva Emilio Fede: che figura di merda!